Avete visto sul Corriere della Sera di lunedì scorso la foto della torta di Gladio? Gladio, sì, la non mai abbastanza celebrata struttura Stay Behind, la banda armata che per un numero imprecisato di anni ci ha difeso a nostre spese dai pericoli della democrazia, che notoriamente è una gran bella cosa, ma il difetto che a lasciarli fare i cittadini sono anche capaci di mandare al potere della gente poco simpatica che il potere c'è già, per cui bisogna provvedere. I suoi, come dire, militanti, soci, iscritti, camerati. Ecco, i suoi camerati di Gladio, dico, si sono riuniti giusto una settimana fa a Vedi Puglia, nel Friuli, per celebrare le imprese del passato e fondare una regolamentare associazione Reduci. E tra l'altro, oltre a darsi delle gran manate sulle spalle, ascoltare discorsi e messaggi, celebrare la messa, si sono mangiati la torta. Una specie di lenzuola rettangolare, deve essere sui 2 metri per 2,5, che appare gloriosamente in prima pagina del massimo quotidiano nazionale in compagnia di un ometto baffuto, incessato a righe, che assomiglia stranamente al nuovo impianto almirante, ma dalle didascalie risulta essere un tale generale Inzerilli, ex capo di Stato Maggiore, presente alla riunione a titolo personale, e vorrei ben vedere a quale altro titolo avrebbe potuto esserci. Quanto alla torta, ecco, io non so a quale categoria dolciari appartenesse. A occhio e croce sembra uno di quegli affari di pasta margherita farcita imbevute di alchermes e ricoperte di glassa e di marzapane che rappresentano uno dei più dolorosi tributi di ogni ricevimento nuziale. Ma quale che fosse gastronomicamente, aveva un'indubbia presenza iconica, iconografica. Più che una torta era un vero e proprio manifesto. Oltre al simbolo dell'organizzazione, non ho capito di quale, se della neonata Soreduci o della struttura madre, oltre al simbolo recava infatti un motto a grandi lettere che immagino di cioccolato: Silendo libertatem servo, stando in silenzio io servo la libertà, che ammetterete è un bel motto espressivo, riecheggia con elegante variazio usi a bedir tacendo dei carabinieri ed esprime probabilmente un aspetto chiave dell'ideologia gladiatoria. Questa storia del silenzio nelle cronache della riunione saltava fuori un po' dappertutto. Ricorre persino la preghiera del gladiatore, come è stata recitata da padre Salverio, fratello del generale Cismondi, francescano di Cuneo, e che è il fondatore del suo ordine lo perdoni, in cui si chiede all'eterno e onnisciente Iddio, è una preghiera degli spioni, non può che rivolgersi a Dio onnisciente, di proteggere questi suoi figli, loro, aiutandovi a sventare le tenebrose insidie del nemico, noi suppongo, e le macchinazioni dei suoi complici, e vi si definisce appunto volontari del silenzio. Tanto che il cittadino qualunque, leggendo dei discorsi pronunciati, delle preghiere recitate, degli interventi di almeno 3 generali, dei 2 messaggi e 3 interviste di Cossiga e delle polemiche neanche tanto garbate da cui la riunione è stata condita, si chiede come mai questi fanatici del silenzio abbiano perso un'occasione così eccellente per stare zitti. Ma lasciamo perdere questo aspetto, i motti sono motti. Concentriamoci sul simbolo piuttosto, che c'è da imparare anche da quello. È a forma rotonda, racchiusa in una doppia circonferenza tricolore, un po' come l'emblema di un partito minore di destra su una scheda elettorale. Contiene il nome dell'organizzazione simboleggiata, nella foto che abbiamo sott'occhio è illeggibile, e una carta d'Italia. Beh, la patria è sempre la patria, e d'altronde gli ex gladiatori avevano già dato una bella prova di patriottismo, accomodandosi incuranti dei disagi attorno a una tavola a forma d'Italia al ristorante da Fuclanut. Però quella sulla torta è una strana carta d'Italia, che non contiene alcuna definizione geografica precisa, non reca indicazioni di città, fiumi, catene montuose, pianure, reca soltanto il profilo della penisola con relative isole maggiori. È una fitta rete di raggi concentrici che, partendo da un luogo collocato più o meno in corrispondenza della capitale, avviluppano l'intero paese, dividono a spicchi l'intero paese, simboleggiando, suppongo, il ruolo centrale di Roma e di ivi a sede. Insomma, i gladiatori vogliono mettere in chiaro che la libertà che loro difendono tacendo, o nel caso parlando, non è quella di mettere in discussione il ruolo del governo centrale. L'Italia unita e poche storie, anche se loro si riuniscono in Friuli sanno bene che tutto, ma proprio tutto, si irraggia da Roma, caput mundi. È un'opinione assolutamente legittima, come peraltro è altrettanto legittima quella opposta, noi che siamo furbi sappiamo perché il problema dell'autorità centrale oggi è così dibattuto, ma non lasciamoci portare via dalle polemiche contingenti. Non occorre essere reazionari o filogolpisti per credere nell'unità del paese e non è necessario aderire alla Lega del Bossi per essere convinti della necessità di un assetto federale, regionale o comunque ricco di autonomie. Ma quello che occorre a un'organizzazione come Gladio, o all'associazione dei reduci da Gladio, o ai santi protettori di Gladio, o ai generali che partecipano a titolo personale alle riunioni dell'associazione dei reduci di Gladio, quello che occorre a tutti questi signori e ai loro sponsor, quello di cui non possono fare a meno, è un nemico, un bel nemico. E adesso che l'antico avversario, che è il nemico per eccellenza, si è provveduto a togliersi da mezzo da solo, adesso che il fantasma del comunismo non si aggira più per l'Europa, che i pericoli di un'occupazione jugoslava nelle regioni orientali si sono molto attenuati, beh, qualche spauracchio da agitare devono ben trovarlo, no? Perché che noi lo vogliamo o no, loro sono sempre pronti a difenderci.